tra la pellicola e il digitale, e quindi ho girato in pellicola. No. E quindi, esatto, sono legata emotivamente alla definizione di filmmaker e non solo di videomaker, che è più... Ma Margherita, scusami, ma con questa faccia tu mi vuoi dire che hai girato in pellicola? Io non ci credo. Sì, ho fatto due corti al centro sperimentale, cioè, con questa faccia perché, in no, con questa faccia perché dimostri la metà dei miei anni. E vabbè, ma io mi celo dietro questo cappellino e fingo bene. Ah, hai capito. Io mi fingo giovane. Passa a guardare di là di questa retina che hanno messo davanti al microfono e passa a salutare la co-conduttrice coccica. Ciao. Andy, come vedi, invito tutte amiche giovani. Comunque, giovani. E se non lo sono, si fingono. Anche lei giovani. Si finge giovane con, esatto, gli occhiali a specchio. Sì. Ma anche senza. Vabbè, fortuna che almeno a stare insieme a voi mi sento ad essere in giovani pure io. Ma dai, Fedra, che sei giovane pure tu, dai. Ok, va bene. Siamo tutti giovani. Ma tanto saremo sempre giovani. Questo, ah, ormai... guardate, qua è arrivato un nuovo attrezzo tecnologico, a proposito che una volta avevamo il telefonino, adesso al 333 180 94 94, e si ricevono sms e whatsapp da una cosa che non so se riuscirò ad usare. Io tocco, c'è che scritto cos'è? Tocco un tablet? Vado bene, ragazze? Sì, lo tocchi ma sì. Non si accende nulla. È morto. Va bene, dai, è anche attaccato al carica. Perciò direi 129esima puntata di Coxo Spaziale. Super mega galattica ospite della puntata Margherita Ferri, filmmaker, che ci... che ci spiegherà un po' il suo percorso a cavallo tra pellicola, tra analogico, analogia, digitalità. E bentornata alla super mega galattica co-conduttrice coccica e Andy in veste W Joe. Vuoi lanciare il secondo interrogativo della puntata? Vediamo se qualcuno... l'altro indovinello, diciamo, su, sì, di me. E poi mandiamo un branino così, sì, anche per capire, okay, meglio come. Allora, siccome poi questa non la sai, la soluzione non potrai mai spoilerarlo a nessuno. Vediamo chi indovina come si chiama il mio gatto. Ah, perché è sempre coi nomi, perché la volta scorsa non so se te l'ho raccontata, ma praticamente no. Grande indovinello, come si chiama Elena, la co-conduttrice? Qual è il nome di battesimo di Andy Elena, la co-conduttrice? Va bene, dai. E allora hanno vinto tutti poi, eh? Sì, infatti devo dare un sacco di premi. Di soldi. No, ha vinto una persona che vi sta aspettando di mettersi d'accordo, perché si è fatto vivo su Facebook per andare a fare il giro in moto. Sì, sì, ma io non dico cazzate. E intanto io questo brano, coxate, cara, coxate, non quell'altra. Scusate, non dico coxate, ecco, quindi bene. Il e giremoto adesso lo aspetta. Dedichiamo questo brano a un co-conduttore il co-conduttore coxico di dicembre, Max Briarava. Monde ma vie est infidèle, si prévisible, non je ne suis pas certaine que tu le mérites, avez de la chance pour vous aime. Dis-moi merci, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mais une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère, elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre ce serait pire. Quoi, toi aussi tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi tu pensais. Rendez-vous prochain règlement. Rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan, et que j'aime trop les blablabla. Mais non, c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas, tu sais, la vie c'est des enfants. Et comme toujours c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire là tu es présent, mais pour les élever y'aura des absents. lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens, il n'y a que Kate Moss qui est éternelle. Mon chou belle, c'est jamais bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Ed ecco, bentornati sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1 FM a Cox Spaziale 129, e seconda puntata di co-conduzione coxica con Andy, Invest W, Joe, super mega galattico ospite, primo ospite di febbraio, Margherita Ferri, filmmaker e nello specifico documentarista. Anche se sto cercando di smettere di essere documentarista. Vero perché che fa male essere documentarista, fa male alla salute? Sto cercando di uscire dal tunnel. No, è che parliamone un po', perché in realtà diciamo è il lato meno esplicito, meno appariscente, se vogliamo, della professione cinematografica, ma in realtà è forse anche il più attuale. E io ovunque mi giri becco documentaristi, cioè, nel senso che è una cosa bella. Disperati. Becchi documentaristi in giro per la strada. Vabbè, disperati. Io non è che frequenti molto, cioè, effettivamente sono un po' un caso a parte, però ne incontro più di quanti. E adesso non è filmmaker, cioè è filmmaker, sì, ma sì, sì. Vogliamo un po' parlare di questa, di come ti addentri nel percorso cinematografico, filmmakeraro. Certo, allora dai. Io ho iniziato a fare dei video quando facevo il liceo con un gruppo di amici. E però avevo che il grande. Che hai fatto? Ho fatto. Non lo posso dire perché è una scuola privata. Va bene. Allora, l'indirizzo. Poi andavo alle manifestazioni per manifestare contro le scuole private. Tutti dicevano: andiamo sotto al Santa Umiltà a Faenza. Io no, andiamo sotto quell'altro. Ma tu da dove vieni? Io sono di Imola. Ok. E a Imola c'era questo centro culturale per il video e l'informazione, insomma, che era. Si chiamava La Palazzina. Dal quale sono transitati anche altri documentaristi dell'Emilia Romagna, registi, produttori, ed era molto attivo, e quindi c'era questo gruppetto di adolescenti un po' sfigatelli che facevano dei cortometraggi brutti, però ci divertivamo molto. Dopo, durante l'università, ho continuato così in solitaria, ho realizzato il mio primo corto, poi più o meno ho deciso cosa volevo ma fare. Ma era già documentario come corto? No, il primo. Perché il documentario fatto non ti prende subito, cioè arrivi dopo come una sorta di maturità del linguaggio. Ma in realtà quando da ragazzini facevamo dei piccoli documentari, che noi chiamavamo i video, su delle cose che ci piacevano, tipo, non so, sui graffittari di Imola, su vari Heineken Jamming Festival, e quindi alla fine era un approccio molto pop, perché comunque mettevamo della gran musica, delle cose divertenti, però erano di fatto dei mini documentari. E anche perché per fare un racconto di finzione ti servono più risorse, e poi se non hai, diciamo, del production value, fa un po' schifo a vedersi, mentre i video erano tipo dei piccoli reportage, riuscivamo a creare qualcosa di micro interessante, insomma. E poi dopo, niente, all'università ho continuato e ho studiato un anno negli Stati Uniti. Università qui a Bologna, sì, DAMS fatto... Cinema? No. Quale? Solo noi abbiamo fatto il DAMS. Ma tu che DAMS hai fatto? Ma io teatro. Io ho fatto cinema. Oh. Ma tu eri quadriennale, cara? Certo, come anch'io, te. Cara. E tu? E non vi siete mai incontrate? Ma certo, infatti sì, ci conoscevamo. Ma ci incontravamo da altre parti. All'università non so. Poco, ma chi l'ha mai frequentata? Io poco. In Piazza Verdi ti fermavi. Sì. I primi due anni. No, io l'ho sempre vista dove c'era da fare laboratori di teatro. Teatro, sì. Serate alternative di ricerca, festival, storie, arte. Vabbè, dai, ma dai, sì. Allora riconcentriamoci. Andy è un'artista completa. Grazie, carissima. Me ne mando uno stacchetto d'amore? Anzi, ma dai. Di fronte a questo. Il bastone della pioggia. Va bene, l'amore. Cozzo sacrale. Accendino tipo così. Ma, da, ricordiamoci sto giro di fare le foto, non deludiamo i fan. Cavoli, è vero, ho portato anche gli occhiali. A proposito, a chi ci sta ascoltando e chi voglia rispondere, qual è il premio per chi risponde con il nome del tuo gatto? Non lo so, il che gatto. Premio vogliamo dare? No, non ridere proprio così, proprio vicino, che già lo faccio io. E comunque 333 180 94 94 ho capito come si usa il nuovo ricevitore. Benissimo. Qui davanti, sia quindi... per gli SMS che nei WhatsApp. Niente MMS, niente chiamate, al massimo mandatemi il numero che poi vi chiamo io. Cioè, capito, ma sì. Va bene, allora ritorniamo a noi, che il tempo stringe, tempi radiofonici, tutto quanto. Vogliamo ascoltare un piccolo contributo dei file che mi hai passato e poi parlare di quel progetto? Sì, allora parlando di documentari, sì. Io ti suggerirei di mandare quello che si chiama A Fior di Pelle presentazione, okay. Perché A Fior di Pelle è un progetto documentario che sta diventando un colossal, perché abbiamo iniziato a girarlo tipo 8 anni fa a Bologna, in maniera molto punk, molto underground, ed è la storia di una ragazza che transessuale che fa la transizione da uomo a donna. Okay. E soltanto che e diciamo un po' racconta anche un certo modo e momento super queer di Bologna, in cui c'è anche Andy Jo, tra l'altro. Vabbè. Ho scoperto un vecchio... Allora, ascoltiamo il file che c'ha dentro un po' dell'atmosfera e poi andiamo a sviscerare tutto fino alla radice. Ok, vai. Andiamo. È stata una processione che è partita dall'età di 5 anni. Per esempio, non facevo i giochi, no? Classificati come giochi da bambina, però effettivamente stavo quasi tutto il tempo in mezzo alle bambine. E mi sentivo bene, mi sentivo una di loro, già a quel tempo. Questa è la bella, dopo mescoli. Mm. E quello che sbava lo passi via. Devi mescolarlo però, sennò ad esempio vedi qua, qui è tutto di un colore e qua sotto di un altro e qui è sbavato, devi mescolarlo con le lame. Fai finta di... Ecco, sì, così. Okay. È buono. Oh. Cioè, io dovevo imparare a fare tutta questa roba, ma neanche... Guarda, mi rifiuto a priori. Piuttosto faccio una serata da Derek King. Ma che meraviglia! Io mi ricordo che tutta la mia infanzia non vedevo l'ora di avere l'età per potermi mettere il rossetto, i trucchi, che gli rubavo tutte le cose cosmetiche che trovavo in giro la nonna, che la mamma ne usava un po' meno, e invece lui, che a quanto ho capito poi, non vuole proprio il trucco. Sì, praticamente Artemide, la protagonista del documentario, in questa scena un po' racconta insomma l'inizio della percezione appunto di sentirsi una femmina, a quel tempo una bambina, anche se è un bambino, e c'è questa scena dove la sua amica Elisa la trucca per andare a una serata, insomma, a ballare, e Artemide però diciamo molto refrattaria ai cliché femminili, no? È una trans un po' particolare e quindi dice che piuttosto imparare a truccarsi perché ci vuole troppo tempo, si veste da drag king, che sono piuttosto preferisce fare la serata da drag king piuttosto che vedere. Che cosa sono truccarsi. I drag king? Che io ho sentito che sono drag queen, è un gioco di parole con le drag queen. Sì, è il corrispondente, diciamo, maschile della drag queen, cioè sono delle donne che si travestono da uomini per fare uno spettacolo un po' dove la maschilità è inscenata in modo un po' grottesco, però sì. Artemide è una ragazza trans che dice piuttosto che truccarsi si traveste da drag king, cioè tipo è il massimo del queer, cioè tipo veramente de qua e de là, l'esplosione, proprio, pa, pa, pa, pa. Sì, l'esplosione sì. Del gender, cioè il gender che ci che avvolge, che inonda, benedice. Amen. A fior di pelle. A fior di pelle. Che quindi sì. Dicevi che è un progetto più ampio. Sì, fondamentalmente è nato come in maniera molto indipendente ed è sempre andato avanti in maniera molto indipendente. Però doveva essere un breve video, poi in realtà diciamo ci siamo un attimo distratte, sono passati 9 anni e nel frattempo Artemide ha finito la transizione, ma abbiamo continuato a girare. Quindi adesso c'è una specie di antologia della vita di Artemide. Ma che meraviglia! Che verrà adesso conclusa con ma avete girato 8 anni, 9 anni? Sì, non è che tutti no, i giorni stava okay. A casa. No, vabbè, però insomma per questi 9 anni sono stati documentati da sì, insomma, ogni... tutti gli anni, metti. Sì. Ma Artemide è stato fortunatissimo. Fortunatissima? Ah, sì. Beh, vai. Sì, l'abbiamo un po' fatta impazzire, specie magari all'inizio, però no, sì. Ma sicuramente è una storia preziosa, soprattutto perché... E, diciamo è un po' va a scardinare gli stereotipi della transessualità o magari di quello che le persone si immaginano una ragazza transessuale. Anzi, in realtà, se posso dire questa cosa, è un film sulla ricerca della femminilità, perché poi negli anni ci siamo accorti che entravano tutti questi personaggi nella sua vita che cercavano di dirle come essere donna, perché come abbiamo visto lei non è che è proprio, sai, la trans quella diciamo splendida e col tacco 12 per truccata, è abbastanza sportiva e quindi ci sono, è tempestato di queste donne che gli dicono che come deve essere donna e questi personaggi sono incredibili, sono tipo un'amica pancabestia, Olly, una bambina. Ma è meraviglioso. Ma tu dicevi che quindi avete fatto riprese per 9 anni, dicevo che è stata che Artemide è stata fortunata e cioè siete stati fortunati anche voi di incontrarla e tutti siamo stati sfortunati che voi vi siate incontrati, però avere una documentazione per quanto divaga per 9 anni io la vorrei un sacco, anche solo per vedere come sono cambiata io, a prescindere da cambiamenti macro ma anche nel micro, insomma come percorso umano. Quindi a parte questo quindi adesso a questo punto diciamo le riprese si sono esaurite oppure c'è possibilità di continuare ancora? Ma diciamo che cioè, il percorso è arrivato ha una fine narrativa abbastanza netta, cioè nel senso che poi adesso lei ha un lavoro, guida l'autobus, scrive libri, scrive romanzi erotici, tra l'altro l'ha trovato fantastica. In Artemide B, che potete acquistare, e scrive queste novelle erotiche ambientate tipo nei paesi scandinavi o nei paesi nel futuro. E, ma senti, però, Margherita, sì, diciamo che stiamo mettendo insieme questo tutto il materiale, avviandoci diciamo alla mia cara filmmaker, autrice, che poi immagino che sia in una coralità alla gestione di questo progetto per 9 anni, oppure tu sei proprio la regista e guarda, l'autrice principale? Io ho sempre fatto la regia di questo progetto. Il progetto verrà firmato da varie persone, perché poi diciamo l'idea iniziale è di Elisa Vignando, che è una ragazza che adesso fa l'antropologa da un'altra parte, è mia e Esther Luppi che ha curato il montaggio. E poi dopo chiaramente c'ha le riprese le ha fatte un po' chiunque, veramente chiunque. Meraviglioso. E anche diciamo, tu parlavi prima del documentario partecipato, assomiglia un po' a quel tipo di prodotto, perché ci sono innanzitutto formati diversissimi, quindi dalla telecamerina, digitale, 4:3, poi adesso le ultime riprese sono in HD, sì. Quindi c'è già una follia tecnica. E quindi i contributi sia visivi che anche musicali sono di tantissime persone che poi ci hanno aiutato, mi hanno aiutato nel corso di questa grande insalata impresa documentaristica. Allora io chiedo anche alla co-conduttrice coxica Andy Invest W Joe dimmi di convincere Margherita a ritornare una volta concluso il percorso a raccontarci nello specifico, magari anche con la protagonista ma ovviamente, anzi Margherita, faccio un invito ufficiale, sei già invitata qui, anche se chissà, magari io non sarò più la co-conduttrice, ci sarà il tuo gatto, ci sarà il mio gatto. Come si chiama il gatto di Andy Joe in Veste W per il Coxo di febbraio? Rispondete al 333 180 94 94 e vincerete che cosa? Adesso decidiamo. Va bene, allora intanto che decidiamo, siccome non siamo ancora pronti e belli carichi per le pubblicità delle 7:30, no, abbiamo ancora qualche minuto e forse riusciamo anche a, visto che è molto ricca questa cosa, dici che potremmo provare ad ascoltare il secondo contributo o lo teniamo poi in coda alla puntata? Di un altro film però? Sì. Ok. Ho visto un altro file, quello che mi hai passato, che è Generazione d'Azzardo. Sì, sempre parlando di documentari, vi facciamo sentire un pezzettino di Generazione d'Azzardo, che è un documentario che ho fatto nel 2012 su tre ragazzi, due ragazzi e una ragazza che hanno alla soglia dei 30 anni. Si interrogano se il poker può essere una professione in un mondo in cui anche tutto il lavoro è precario, anche il lavoro tradizionale in realtà ti può sfuggire dalle mani da un giorno all'altro, quindi tanto vale giocare a poker forse. Generazione d'azzardo. Quindi l'unica è tenersi lontano dalla tentazione. Però se tu avessi vinto quel mini PT e avessi preso 50.000, cosa avresti fatto? Andrei a Las Vegas a provare i tornei belli con la gente brava, i tavoli cash, tante cose, ti cambia tutto, però sono sempre sogni. Perché devono sempre rimanere sogni nostri e non loro? Il microfono a tradimento. No, fregata. Michael Cumming. Va bene, allora Generazione d'azzardo di Margherita Ferri. Esatto. E questo è sempre un documentario? Sì, sì. Che è una forma medio breve? Questo è 50 minuti, quindi okay, medio, no, diciamo. No, dicevo a Andy che stavo parlando della musica che è stata composta da Vincenzo Germano e Alicia Galli, che sono... Oddio, che? Non lo so. Non lo so. Ma questa non era opera tua. Momento anni 80. E che sono due studenti di composizione del conservatorio e hanno fatto le musiche per il documentario. Però Alice è anche la mia ragazza, allora stavo dicendo a lei sottovoce: questa che canta è Alice, questa è Alice. Ed ha proprio una bella voce. Grazie. Cioè, dico grazie per lei. Ciao Alice. Ciao. Ciao. Niente, quindi questo film l'abbiamo fatto nel 2012 con un contributo del ministero, quindi fondi pubblici. E con, sì, perché con il tema è proprio urgente, nel senso quotidiano, no? Sì, diciamo che la ludopatia negli ultimi anni è diventata un tema un po' scottante, nel senso che poi molte persone giocano giochi anche statali, ma poi lo Stato, cioè dopo deve spendere in servizi sociali per recuperare le persone ludopatiche, quindi è tutto anche lì un grande cortocircuito. Diciamo che io ho scelto di parlare solo di poker e di Texas Hold'em, e sono il racconto di tre ragazzi molto diversi che hanno fatto del poker o una ragione di vita o una passione, maledizione, oppure un lavoro, perché c'è anche chi gioca poker online e guadagna veramente tanti soldi. E si riesce a vedere online? Il documentario sì. Allora sì, da domani posso dire che su www.coxospaziale.blogspot.com ci sono anche i link per vedere questo video? Certo. Assolutamente, anche perché vedere è strano venire in radio a parlare di visione. Di film, perché sono tutti un racconto visivo. Ma la radio è evocativo, sai, ti ricordi la differenza tra i media freddi e i media caldi? Ai giorni di scienze della comunicazione. Quel vecchio McLuhan, Marshall. Che non lo dico a fa. Comunque ho capito che cosa era successo prima. Era il jingle delle pubblicità, perché sono le 7:30. Certo. Ah, ecco. E allora io gli ridò spazio. Vai. A tra poco con Margherita Ferri, Andy Invest W Joe, Fedra Boscaro, Coxo Spaziale 129 su Radio Città Fujiko. Coxo Spaziale. Coxo spaziale. E bentornati per la seconda parte della 129esima puntata di Coxo Spaziale. Stavo per dire speciale setup, perché ormai di tanto in tanto mi torna in mente quella settimana di maratona coxica, che è stata meravigliosa. Quante però ore avete fatto? Scusa, perché sembra. Cioè, io ho perso diretta... il conto. No, ho perso il conto del numero di puntate fatte. Ti racconto a te, Margherita, intanto che investe W, fa la sua W conduzione informatica. Okay, e praticamente siamo stati a setup con uno studio di registrazione allestito da Radio Città Fujiko, e per tutti i giorni di setup abbiamo registrato puntate da lì. Ah, bello. Sì, bello. Ininterrottamente, però. E Coxo Spaziale è stato invitato a fare il referente di Radio Città Fujiko, quindi insomma, wow. È stato proprio wow. No, scusa. È il tema della serata. Il tema è il gatto. Ah, è vero, aspetta, vediamo se qualcuno ci ha risposto. No, frega niente. Il nome del gatto. Vabbè, ma se sai il mio nome, il gatto. Vogliamo dare un aiutino? Se sai il mio nome, puoi dedurre quello del gatto. Qual era? Quello di Elena? Esatto. E che nome posso dire? Non lo dire. Si chiama Giampiero, si chiama? Poi perché cosa c'entra Giampiero con Elena? Elena Troia? Elena di Troia? Ma è un maschio. Hai chiamato il tuo gatto Troia. No, ragazze, non ci siamo. Una mia amica lo aveva chiamato Strunzo, il suo Strunzo, ma poverino, non lo farei mai. Va bene, scusatemi. Ovviamente gatto, Troia era la città di Elena, mitica, non, altrimenti avrei detto, non lo so, Coxa, non boh. Coxa. Ma non si chiamerà Elena anche il tuo gatto, perché qua si chiama Eleno. Vogliamo vincere noi il premio, che non sapevo neanche cosa sia. Ma ti credo che non chiamano, è perché non sanno il premio. Non lo so, ragazze, vogliamo mettere in palio un altro giro in moto? No, è sempre quello. Vabbè, al ritorno riporto giù. Immagini Elena scarrozzà in giro. No, lei e Andy Joe scarrozzà in giro gente. Non lo so. Insieme, però, sul giro in moto, cioè tipo piramide, con un sidecar. No, vabbè, ho capito, però qua sta diventando un po' troppo W la situazione, E allora volevo dirti che nella seconda parte della puntata noi andiamo con quella cosa che tu sai. Esatto, però non ho ancora trovato l'evento. No, cioè sta proprio. Ma Margherita caro... la sa? Sta caro amico. Allora Margherita, vieni intanto che lei cerca, tu vieni di qua. Ok. Che cominciamo noi. Però le cuffie ti conviene portartele. Ma ci arrivano? Non lo so. Attaccale di qua. Ma ok, l'ho trovato comunque. Allora resta di là. No, ragazzi, cioè, è surreale. Attacca qui, perfetto. E qui parliamo insieme io e la filmmaker della protagonista della 129esima puntata del Coxo, Margherita Ferri, e tu sei insieme a noi su L'angolo della menzione. E quindi leggi qui. Allora, venerdì 12 febbraio, ore 23, Electronic Culture al Ganesh, un party free entry all'insegna della buona musica elettronica house techno. Si alterneranno per voi tre DJ, che faranno un 3 DJ set: Flavio Death, Quiet Sunday e Sahara. Sarà una roba un po' rapeggiante? Forse. Ok, E allora come se l'è cavata? Secondo me egregiamente. Benissimo. Poi direi. Ha fatto anche la corsa di qua dalla, da, di là dal vetro. Cioè, veramente bravissima. Mi assumete? Ma prendi lei come prossima co-coxo conduttrice. Cioè, potremmo parlarne in realtà. Molto buon lavoro. Molto seriamente. Veramente brava. Sì. Certo, un lavoro dell'anima. Oh no, ancora dell'anima. Allora facciamo così, Andy, prepara il file che la prossima la leggi tu. Sì, sta su Facebook. No, sto su Facebook, sì. Ma sei arrivato. Sto facendo i cazzi miei su Facebook. Manda un like, manda un like sulla pagina del Cox. Sta chattando con una tipa. Allora ragazze, cosa devo fare? Ditemelo. Io sono qui sull'evento del Kinodromo, perché lì volevamo arrivare. Che è venerdì 12. Non sono sicura se è proprio questo oppure No, il 19. È il 19. E allora settimana prossima. Allora non è questo. Ne parliamo poi in coda dopo che abbiamo parlato di quell'altra cosa di cui ci parlerà Margherita. Ok, vai. Quindi io adesso riaffido Margherita alle tue cure. Prepara di nuovo il file. Benvenuta doc. Margherita, vieni qua, ricominciamo tutto da capo. Cioè praticamente fare la radio è come andare in palestra. Un sacco Fai di un po' di step. Tre piani Uno, di scale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poi te lo raccomando se vuoi correre in bagno. Oddio, mi avete messo qualcosa nel pranzo. Allora continuiamo con sabato 13, visto che venerdì 19 è la settimana prossima. Ok, lo leggo io? Va bene. Vado? Sì. Ore 21, Azdora, Ritual 11, Glimpses of the Other Side, The Transformation Process. A Raum, performance in forma di rituale black metal per anziane signore affrancate, realizzata da Azdore Romagnole, con la direzione artistica di Marcus Horn e la collaborazione di Alos, voce femminile del duo Ovo. Ma veramente? Sì, fighissimo. Ma infatti io ho visto anche le foto e ho pensato anch'io. Ma quanto fica è la mia co-conduttrice coxica, cioè, di febbraio, che mi trova queste chicche. Capito? Cioè praticamente il metal per le nonne. Ci sono le foto di queste signore di una certa età che truccate come i Kiss. Sì, e con la chitarra elettrica in mano, capito? Con dietro degli amplificatori enormi. Ma loro vengono anche loro? Con questo aspetto Loro sono lo spettacolo. Sono loro le Sdore? Sì. Wow, con questo aspetto, che proprio sono lì annoiatissime, tutte appese quasi al basso, così che si annoiano, proprio sì, le classiche rockstar. Ma tu l'hai visto già lo spettacolo? Perché so che l'hanno fatto anche a Sant'Arcangelo quest'anno. Sì, avevo letto anch'io, ma non no, sei riuscita, non nemmeno riuscita, io non ci riesco mai. L'unica volta che ci sono andata c'eri anche tu insieme a quel mio amico olandese, ti ricordi? Ma qualche anno fa. Un bel po'. Ah, pure io, quindi sono rimasta la carambata. Va bene, allora bando all'autoreferenzialità, se no ci cancellano il programma. Sì. Andiamo avanti, domenica 15, chi lo legge? Lo leggo io? Sì, dai, che ci dico anche due cose. Dopo dietro. Ne vorrei leggere uno anch'io. No, basta, l'hai già Margherita, letto, l'hai tu. Già letto. E chi ce l'ha larghi? Ma non mi fanno fare niente. Ma come, tutte le corsette avanti e indietro? Dai. Dai, va bene, leggilo tu. Ma quale? Io non ce l'ho qui. Exchange contact, no, scambio di contatto. Tu. Non ce l'hai? Ce l'abbiamo, domenica 14. Eccolo. Ah, ok, sì, hai ragione. Scusa. Ok. Vai. Allora, Jandy, che per sabotare la mia lettura manda su e giù il file velocissimo. E tu devi andare su e giù come il file. È sempre palestra, esatto. Margherita. Prima orizzontale, adesso verticale. Allora, domenica 14, ore 17. Exchanges contact, scambi di contatto. Leggere strutture. Per il secondo incontro del 2016, Infloriscenze propone un workshop ad offerta libera sulla Contact Impro con Nicola Portavia. Nica Portavia. Allora faccio un attimo di, perché guarda, vedi, si chiama Infiorescenze e ci ho messo veramente una puntata di Coxo Speciale Setup a impararlo, perché l'ho chiamato Infiorescenze. E adesso dico infiorescenze giuste proprio così. E cosa vuol dire esattamente infiorescenze? Quel Vuol dire quel fenomeno che porta tutti i danzatori e i movers di Bologna a conoscersi e a concentrarsi in questa rete in cui si organizzano incontri gratuiti per fare scambi di pratiche. Quindi una volta insegna un insegnante, tutti seguono, un'altra volta un altro insegnante e c'è questo scambio orizzontale gratuito, perché è offerta libera, e questa cosa si sta realizzando grazie alla volontà e all'energia di tutti questi danzatori coinvolti, ma in particolare di Francesca Antonino ed Esther Braga, che sono state le ospiti di Spaziale, Coxo Spaziale. 129esima puntata. No, loro sono state ospiti di Coxo Spaziale, speciale setup numero 7, credo. Salutiamole allora. E voglio venire anch'io comunque a questo. E adesso a questo punto dobbiamo mettere un brano. Vai. Dobbiamo mettere un brano perché poi c'è una persona a cui voglio chiedere una cosa riguardo a questo eventone che sta. Quale? Questo? Quello che è tanto importante. Ah, ok. Che ogni anno torna e l'Italia canterina. Ah, sì, ne ho sentito parlare. Quello del santo. E potremmo mettere questo brano qua, giusto perché so che le persone con cui parleremo tra un pochino sono abbastanza fan di questo gruppo. E allora vai. Fra le maschere che un uomo può indossare, ricordiamo l'argilla. Fra le maschere che un uomo può indossare, come non citare il bronzo? C'è la maschera di ferro, c'è la maschera di Pippo, ma la maschera di merda te la fa solo Spider-Man. Le ragazze della palla al piede tornano domani, ma adesso è il momento della cazzuola di Spalmen. Un tamarro dietro l'angolo voleva incularmi la Vespa. Un tamarro dietro un altro angolo voleva incularmi la Caterina. Ma io ho chiamato Spalmen, lui mi ha risposto dimmi, e io gli ho detto vieni qui che c'è bisogno di te per difendere me. Cattivissimi perché è arrivato Spalmen, che spalma la merda in faccia. Aiuto, arriva Spalmen, che tutti spalmerà. Perché è arrivato Spalmen, che spalma la merda in faccia. Aiuto, arriva Spalmen, che tutti spalmerà. Non c'è dubbio che Spalmen sia un amico con le mani in pasta. Spalmen gli puoi dire tipo adesso basta. Perché si chiama Spalmen e il nome dice tutto, e ad ogni farabutto tinge il viso color marron, poi lo asciuga col phon. Ti rende spalmatissimo perché si chiama Spalmen e spalma la merda in faccia. Aiuto, arriva Spalmen che tu ti spalmerà. La cartolina del concorso Spalmen, il tuo compagno di banco, e vinci la cazzola laser di Spalmen. Perché è arrivato Spalmen che spalma la merda in faccia. Aiuto, arriva Spalmen che tutti spalmerà. Autografi la faccia di tutti i miei nemici e volto di incornici con pezzi di bubù. Ciao, sono Maurizio Crozza e voglio dirti una cosa. Ogni anno la Toscana è depredata dalla sua terra stessa. Ogni giorno un po' di Toscana muore. Forse per gli incendi? No. Forse per i saccheggi? No. Forse perché? No. La Toscana muore perché ogni giorno qualcuno porta via un sasso. Se ognuno di noi portasse via un sasso, la Toscana si spanderebbe in tutto il mondo e nessuno potrebbe riconoscere più la Toscana. che sarebbe ormai in tutto il mondo, quindi tutto il mondo si potrebbe chiamare Toscana. Quindi la Toscana non esisterebbe più. Non portare via un sasso dalla Toscana, perché altrimenti non sappiamo più dove è la Toscana. Leggere che cosa? Che cosa? Bentornati su Cox Spaziale 129esima. Io sono contentissima che voi siate così curiosi di sapere chi c'ho al telefono. Curiosissimissime. Moltissimo. E fra l'altro il W Original, il tuo predecessore, insomma il tuo quello all'origine del W, sì. Sarebbe orgogliosissimo di averla qui e poterci parlare. Sono ancora più curiosa. Quindi. E io ti metto addirittura anche lo stacchetto. Abbiamo con noi al telefono Elena Grossi. Ci sei? Ho detto oddio. Giusto? Che sì, io sono bravissima nel coxare i nomi. Benvenuta Elena, che bella sorpresa. Ciao. Ma ciao, bel ambiente, mamma mia. Sì, bello. Dove mi avete portato? Ti abbiamo portato dentro il mixer. Vuoi un caffè? Mi sono fatto cimine, infatti, per entrarci. Guarda, dentro il mixer di solito ci si rovesciano le birrette, infatti si arrabbiano molto in redazione, però il caffè mi sa ancora no. Manca, vedi, allora ci vuole un caffè. Bella idea, rovesciamo subito un caffè nel mixer per Elena Grossi. Ma non allora dico niente di quello che ti trovo, allora zitta, parla, bravissimo, non rivelo nulla. Esatto. se proprio ti inchiodano e ti fanno dire, il coxo non c'entra, no, le portate io. Mi sono fermata a comprarla a posto. E fra le varie ciao a tutti, benvenuta. Ciao. Il motivo per cui tu sei qui è per parlare di un gruppo segreto. Sì, segretissimo, che in questo momento non lo è più, evidentemente. Ma infatti il Cox svela i segreti, fa le gaffe. Chissà cosa avrebbero fatto. Richiesta di entrare in questo esclusivissimo gruppo segreto. Poi mi fai sapere quanto vi aumentano le richieste. Fatto sta, è un servizio utilissimo che state facendo, perché probabilmente voi e altri vostri simili, che sono più segreti di voi a questo punto, secondo me, sostenendo la maggior parte dell'audience di questo eventone, che è da quando è stata fatta l'Italia, che va avanti a far sì che a conclamare questa cosa dell'Italia cantante, l'Italia musicista, no? Lo nominiamo a questo punto. L'innominabile. Sanremo! Esatto, siete caduti in ginocchio. Sì, infatti ero sullo sgabello. Oh, che botta. Praticamente Elena fa parte di questo gruppo, lo sto spiegando di là ad Elena, Andy Joe e a Margherita Ferri, di questo gruppo che si chiama Perché Sanremo è Sanremo. Okay, ed è una pagina, un gruppo segreto di Facebook in cui si segue via via ogni puntata, e devo dire che è estremamente illuminante. Lo scopo della pagina è scoprire perché Sanremo è Sanremo. Esattamente. È un gruppo investigativo. Esatto, che è una domanda poi teologica in realtà. Cavoli ragazzi, dogmatica, Sanremo perché Sanremo, senza posto interrogativo, credo, insomma, a questo punto. E no, la cosa curiosa è che, come dire, hai ragione, è una cosa molto utile. Io quest'anno sono senza televisione, si è fritta. E come fa? E sto praticamente ricostruendo visivamente, mentalmente Sanremo, leggendo tutti i commenti alla cieca, completamente alla cieca, dei partecipanti a questo gruppo. Puoi ascoltarlo alla radio, così almeno ascolti le canzoni, e poi invece i commenti sui vestiti li leggi su Facebook. Esatto, una cosa fa la radio, è una roba epistolare, insomma, non mi leggo questi telegrammi, diciamo. Che poi aggiungo che anch'io non ho la televisione, e a vedere il gruppo che stamattina mi è capitato, mi è venuta voglia di vedere lo spettacolo, perché ci sono degli accostamenti tra dei protagonisti della canzone, certi protagonisti dell'immaginario. Ad esempio c'era, credo, Nilla Pizzi affiancata alla cattiva di Beautiful, la concorrente di Stefani, chi era? Sally Spectre, esatto. Oppure il drago del Fortuna Drago della Storia Infinita, insieme ad un'altra canzone. Patti Bravo. Ecco. Ma Margherita è preparatissima, sa già tutto. Non è che sei anche tu nel gruppo segreto? Sì. Diccelo! Ma quanti membri ha questo gruppo? Quanto segreto è? Ah, guarda, i membri non lo saprei, comunque sono parecchi, secondo me saranno, boh, forse anche un centinaio, forse anche, non lo so, non saprei, forse anche meno. Ed è segreto finché qualcuno non te ne parla e tu chiedi di entrare, diciamo, a discutere, quindi relativamente segreto, insomma. Posso fare una domanda ad Elena? Ma c'è un rito per entrare nel gruppo oppure basta soltanto iscriversi su Facebook? Devi cantare Grazie dei fiori? Esatto, oppure altri successi a richiesta, così. No, però si potrebbe istituire, una buona idea questa, effettivamente. Vedi, fatelo, vai. Il coxo... fare un casting all'ingresso. Grande. Perfetto, metto anche lo stacchetto, ecco. Elena, grazie per essere stata con noi, sei stata simpaticissima. Ma qual è il nome del gruppo? Perché Sanremo è Sanremo. Ah, già. Punto interrogativo. Lo diciamo in coro? 1, 2, 3. Perché Sanremo, Sanremo. Non ho capito niente, è molto, tutto ciò è molto coxico. Elena, ti ringrazio tanto per essere state qui con noi. E ma ringrazio voi. E ci vediamo prossimamente sui commenti di Sanremo e Sanremo, perché stasera me lo seguo anch'io. Poi sono curiosa appunto di vedere che idea te ne fai anche tu di questa cosa. Me ne farò una cultura. Una cultura, esatto. Trasversale. Ciao, buona serata. Ciao Elena. Grazie mille, ciao a tutti. Ciao. E avete capito? Dopo l'ontologia di Sanremo? Ma secondo me è utile, perché io non me lo spiegavo perché come si potesse seguire una cosa così interessante. Mi sono resa conto di essere in radio. Ragazze, noi abbiamo ancora 7 minuti scarsi. Sì. Io devo parlare di status, se no. Perché sei anche lì, non solo nel documentario, ma anche nel fiction, che in realtà qualche cosa di documentaristico ce l'ha, se vogliamo, nella fragranza della scena che racconta, che dell'ambientazione, perché è girato completamente a Bologna. Parlaci di status. Ah, eccoci qua. Allora, status è una webserie di cui parlo volentieri qua, perché è una produzione 100% bolognese, scritta e diretta da me, Davide Labanti e Renato Giuliano, che sono tra l'altro due membri del Kinodromo, che è questa associazione di cineasti e persone che lavorano nel cinema, che adesso gestisce delle serate al cinema Pietralata, al cinema Europa, scusa, in via Pietralata, e anche il Loft, che è che è un posto nuovo che hanno aperto quest'anno, cioè l'anno scorso, tipo a settembre, ottobre. Sì, spero che dopo questo spot mi offrano un prosecco, tra l'altro. Anch'io. Anche a me piace molto il Loft. 3 prosecchi. Grazie. E niente, quindi noi diciamo che siamo 3 registi sceneggiatori che di solito non lavorano con altri registi, perché il regista è un po' quel lavoro che già deve avere a che fare con la tua testa, in più se ti metti a dover discutere con altri non finisci più. E invece abbiamo partecipato ormai 2 anni fa a un concorso indetto dal Milano Film Festival che si chiama Are You Series, di cui era la prima e unica edizione rimasta, per raccontare attraverso una webserie il no profit. E abbiamo girato il pilota di questa serie che abbiamo chiamato Status, che racconta le avventure di un piccolo spacciatore bolognese, che diciamo che di no profit non ha niente, è molto profit, che viene lasciato dalla fidanzata, che parte invece per fare la cooperante in una ONG che opera in Albania e deve riconquistarla andando anche lui in Albania diventando un cooperante. Quindi diciamo dalla parte dei cattivi deve diventare un dalla parte dei buoni, ma in realtà lui è già buono perché è anche molto etico. La fidanzata tra l'altro è interpretata da Eleonora Giovanardi, che dopo Status ha fatto carriera e è anche protagonista del film di Checco Zalone, dove tra l'altro fa la ricercatrice in Norvegia. Incredibile, caramba, la mandate a far dottorati ovunque. Esatto, nata nel ruolo di dottoranda. Dottorata. E il protagonista è interpretato da Edoardo Lomazzi, bravissimo, che si chiama Soccia, che proprio abbiamo deciso di chiamarlo con un nome bolognesissimo. Io posso fare ascoltare un pezzettino? Ma io lo metto, Status episodio 2, ricetta sì, burro. Sì, è un pezzettino dell'episodio 2, che è uno di quelli che ho diretto e che comunque sono tutti disponibili sia su My Movies, che è il distributore, sia su YouTube, se ve li volete andare a vedere. Sì, da domani link su www.coxobasiale.blogspot.com. Ed è il momento in cui lui spiega a questi due ragazzetti la sua ricetta segreta. Ok. Quindi l'unico è tenersi lontano dalla tentazione. Però se tu avessi vinto quel mini PT avessi... Ho sbagliato file. È quello stato. Quindi l'unico è tenersi lontano. Sai che cos'è? Non che non legge il formato e skippa quella dopo. Ah, ok. Quindi la voce di Edoardo la sentiamo la prossima volta. Oh, no. Peccato. È venuta a controllare, infatti non mi legge il nome. Vuoi che riproviamo? No, non lo legge, non c'è neanche la durata. Vabbè, fa lo stesso. No, vabbè, perché soprattutto perché tu? Comunque status ha sbancato online. Ah, guarda, sì, diciamo che sbancare e online sono due cose che non sono direttamente collegate, perché comunque è una distribuzione gratuita su YouTube, quindi te la sì, guardi. Sì, però le visioni sono state molte. Io il primo episodio l'ho visto, poi un po' ho perso i fili e comunque... Ma tanto, sono sempre lì, non c'è problema. E quindi da domani... Se non li hai visti, quelli rimangono su YouTube, ve lo potete guardare quando volete. E da domani per sempre troverete i link su www.coxospaziale.blogspot.com, dove ritroverete anche il link per riascoltare la 129esima puntata di Coxo Spaziale, che ha avuto la collaborazione con la co-conduzione occasionale di Andy Invest W Joe. Oh yeah. E il super mega ospite Margherita faccio l'ola Ferri. Margherita Ferri nel suo viaggio cinematografico da filmmaker tra il documentario e abbiamo scoperto proprio in coda la fiction, e che tornerà presto a parlarci anche di come andrà, cioè dei prossimi progetti. Sì, del documentario e poi del film che realizzerò presto. Segreto. Ah, ecco, di questo non ce ne hai parlato. È un po' come il tuo gatto, il segreto. Ma è facile, è comunque, misterioso. Cioè è veramente facile. Poi quando ve lo dirò vi stupirete del fatto che non eravate riusciti a dirlo. Ma secondo me è facilissimo. Secondo, prova e poi mando la pubblicità. Forse delle 8. Si chiama Andy il tuo gatto? No. Forse si chiama W. Forse Joe. No. Giovanni. No, ragazzi, pensate un attimo. Va bene, ci pensiamo una settimana. Io ringrazio tutte e mando la splendida pubblicità delle 8. Grazie a te, ciao. Ciao.